Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Qualcuno di loro vive ancora negli alberghi sulla costa. Molti hanno dovuto ricomprare tutto, zaino, libri, quaderni, inghiottiti dalle macerie delle loro case quel maledetto 6 aprile. Eh sì, stiamo parlando dei ragazzi d'Abruzzo. Prime vacanze di Natale per loro dopo quell'esperienza così violenta, che ha significato lutti, perdita delle proprie case e delle proprie cose. E anche, come sapete, perdita di oltre 2 mesi di scuola. Poi finalmente, dopo l'estate, sono tornati tutti sui banchi, ma non sono più gli stessi ragazzi. È la nostra voce narrante di quanto sta accadendo nelle scuole d'Abruzzo, la professoressa Antonina Marinelli, insegnante di italiano e storia all'Istituto Tecnico per Geometri dell'Aquila. L'abbiamo già sentita altre volte, volentieri torniamo a farlo. Con le vacanze di Natale, infatti, si può cominciare a fare il punto di come stanno andando le cose e di come è stata la ripresa delle attività. Non facile perché come la questione logistica non è ancora del tutto risolta. Noi siamo stati tutto sommato fortunati perché siamo rientrati il 21 settembre e siamo rientrati nel nostro vecchio edificio che è stato rimesso in sesto, insomma sono stati fatti così quegli aggiustamenti che necessitavano. Ma ospitiamo ancora in questo periodo, quindi siamo ormai a 3 mesi dall'inizio della scuola, ospitiamo altre 2 scuole, o meglio parti di 2 scuole. Questo perché immagino che i loro edifici invece non siano agibili. Il loro edificio è inagibile, anzi quello del tecnico femminile addirittura è sotto sequestro perché è crollata una parte che era stata rimessa, su cui erano stati fatti dei lavori poco prima del sisma ed è crollata proprio quella di parte, quindi ripeto ci sono i sigilli. Le altre scuole, i MUSP non sono ancora pronti e quindi li ospitiamo noi. Bene o male, seppur fra tanti disagi, comunque siete di nuovo a scuola, siete stati per 3 mesi insieme di nuovo. Immagino che sia stato comunque bello e importante, soprattutto per voi, riprendere a lavorare, riprendere a vedere i ragazzi e riprendere a studiare con loro. Indubbiamente, ed è stato veramente il lato positivo di tutta la questione. Gli abbracci, i ragazzi che si sono così ritrovati dopo una separazione forzatissima, perché insomma quel 6 aprile ci ha letteralmente devastato la testa, lo possiamo dire, insomma, senza mezzi termini, e c'è stata una separazione violenta, non voluta, chi si è ritrovato sulla costa, chi dalle parti del Teramano, chi verso Ancona, chi presso i parenti, insomma, c'è stata una dispersione notevole e quindi essersi ritrovati a scuola, essersi ritrovati in classe ha significato per davvero questo tornare per loro ad una forma di normalità, una forma, non normalità, perché insomma sarebbe veramente chiedere troppo, quindi normalità c'è poco. C'è veramente poco. Devo dire che c'è stata anche la costanza da parte di molti alunni di fare lunghi viaggi, lungo viaggio la mattina per arrivare dagli alberghi della costa fino qui o anche da altri paesi. Insomma, perché molti ragazzi hanno deciso di tornare nella loro scuola anche facendo molti chilometri. La maggior parte dei ragazzi, noi temevamo veramente una diaspora che non c'è stata per fortuna, quindi li abbiamo quasi tutti qui li abbiamo. Sono pochi quelli che hanno scelto di restare fuori. E il fenomeno si è avvertito molto più nelle scuole, nella scuola primaria, nella scuola materna, che non alle scuole superiori. Le mamme avranno deciso di iscriverli ovviamente più vicini, comunque all'albergo dove sono costretti per lungo tempo. Certo. Indubbiamente, insomma, il motivo, ma anche perché noi conosciamo bene il freddo dell'Aquila, conosciamo bene la situazione, diciamo, delle strade, la viabilità, eccetera. E qui tra non molto, quando ci sono le bufere di neve, il tratto autostradale che collega l'Aquila sulla A25, l'Aquila alla costa, spesse volte chiuso d'inverno proprio perché ci sono bufere di neve e vento, quindi non è praticabile sempre. Ecco. Quando siete sui libri, quando lei spiega, interroga, è tutto risolto? È tutto tornato alla normalità o purtroppo la paura c'è ancora? Assolutamente non è tornato nulla alla normalità perché, guardi, le do un attimo così un'immagine, spero renda un po' l'idea. Ci sentiamo, ma a partire da noi docenti, un po' squaternati, così quei fogli che vanno vagando in un quaderno che non si riesce a mettere in ordine. Del resto la paura ci ha ancora, non ci ha abbandonati, le difficoltà ci sono ancora e quindi ecco, questa è la conclusione, tanto che abbiamo un supporto psicologico quest'anno più forte che mai. Mi diceva che comunque ad ogni rumore strano vi guardate un po' spaventati. Come no, sbarriamo gli occhi e ci guardiamo così, è uno sguardo reciproco da parte di tutti, dici, ma ha fatto, è stata, cos'è? Ecco, cercando un po' di capire che cosa effettivamente ci sia intorno. Quindi la paura è stata tanta e non ci ha abbandonato, ci vorrà tempo. Riguarda invece i programmi, adesso parliamo di cose che sembrerebbero meno importanti, ma non è vero, perché stiamo parlando di ragazzi di quinta, in questo caso fra poco sentiremo le loro voci. Siete rimasti molto indietro o riuscite a recuperare? Ragazzi collaborano, insomma, trattano? I programmi noi li abbiamo interrotti al 4 di aprile. Da settembre, dal 21, abbiamo così cercato di recuperare quella parte di argomenti necessaria per proseguire poi col programma di quinta, col programma di quarta o quel che è, insomma, nella classe. Non ci troviamo affatto avanti col programma e neanche nella normalità, siamo un pochino indietro, ma ripeto, questa insomma è una lotta un po' quotidiana da parte di tutti, perché le difficoltà che abbiamo noi le avvertono anche i ragazzi, chi è stanco, chi non ce la fa, chi effettivamente ha perso molto perché quest'estate magari, o meglio, già qualche difficoltà c'era nell'anno passato e non si è recuperato nulla. Quindi insomma delle obiettive difficoltà ci sono, poi loro hanno gli esami di Stato, quindi a maggior ragione vedremo un po', loro si debbono proprio impegnare quest'anno. Ma... E allora sentiamoli questi ragazzi, Daniele, Damiano. Daniele, eccola. Sì, allora, quest'anno la maturità, una maturità che cade dopo un periodo oggettivamente molto difficile per voi da tutti i punti di vista, logistico, psicologico, come state affrontando l'anno scolastico? Dunque, il problema nostro è, come ha detto la professoressa, che ci troviamo indietro con i programmi, cioè per dire, sulla matematica il programma di quinto lo inizieremo a gennaio. Quindi noi per il momento siamo abbastanza impauriti, diciamo, da questa maturità e speriamo in comunque... una forma di non so come posso chiamarla. Insomma, che i commissari siano un po' clementi con voi, come lo sono stati peraltro l'anno scorso con i vostri colleghi di un anno più grandi. Esatto, perché noi comunque ci troviamo indietrissimo ai programmi, avendo saltato tutto maggio e aprile, e poi parecchi professori per esempio sono mancati all'inizio perché c'erano difficoltà logistiche, proprio quindi a settembre è riniziata sì la scuola, però è riniziata pure per modo di dire, alcune scuole hanno cominciato a fare le 5 ore piene soltanto nemmeno un mese fa, quindi hanno fatto per 2 mesi soltanto 2 ore di lezione al giorno, e quindi per un quinto fare 2 ore di lezione al giorno è improponibile, diciamo. Tu ad esempio dove abiti? Io abito in uno dei quartieri comunque più disastrati, comunque, anche se casa mia non ha riportato danni, io abito proprio a Pettino di fronte all'ospedale. Quindi non sei di quelli che si è dovuto trasferire quantomeno? Non devi fare un lungo percorso per arrivare a scuola? C'è qualcuno lì che invece arriva dalla costa? Forse oggi non ci sono perché... No, oggi non ci sono. Attualmente siamo tutti all'Aquila, però abbiamo avuto una ragazza che per 2 mesi ha viaggiato appunto dalla costa. Nonostante le difficoltà che mi stavi elencando, quanto è stato importante per te comunque ritrovare i tuoi amici, ritrovare la tua normalità, i tuoi studi, i tuoi libri? Quello è importantissimo perché uno, diciamo, noi ragazzi sempre si dice dai, non voglio andare a scuola, però alla fine quando ti trovi a non andarci forzatamente, quando ti trovi a non averla proprio la scuola, all'inizio magari stai tranquillo, però dopo un po' comincia veramente a mancare, perché perdi la scuola, dà un senso di normalità, di routine, e una volta che uno rientra a scuola si risente a casa, comunque con gli amici gli pare di vivere la vita che viveva prima comunque. Qual è stato il momento più bello da quando sei tornata a scuola il 21 settembre? Il primo giorno sicuramente, perché comunque ci siamo riabbracciati comunque tra di noi, siamo una classe molto legata e per 6 mesi ci siamo persi comunque, non abbiamo avuto contatti tra di noi, tranne qualcuno comunque, per la maggior parte ci eravamo persi di vista. E qual è stata invece la cosa che ti mancava di più quando sei stato a casa forzatamente? Questa è una bella domanda, perché a me mancava proprio il complesso scuola, proprio l'idea della scuola, non tanto una cosa singola, nel complesso, diciamo. I tuoi amici, no? Immagino anche, insomma, deve essere stata dura stare lontano anche da loro. E, insomma, chi è che c'è ancora che mi vuole parlare? Damiano. Io, ci sono io, eccomi. Ciao Damiano, anche tu, come si diceva, sei dunque dell'Aquila, non hai problemi sì. logistici particolari, tu sei a casa tua? Sì, sì, per fortuna, sì, infatti casa mia è agibile, quindi sono rientrato quasi subito. E quindi da questo punto di vista sei stato fortunato, però anche sì. per te, insomma, si presenta un anno scolastico molto difficile, una maturità che forse per voi è un po' più faticosa che per gli altri. Come ti senti tu dal punto di vista anche proprio dello studio? Sei riuscito a riprendere il ritmo? Beh, insomma, alla fine non proprio, perché ecco, in alcune materie, appunto, come diceva anche il mio compagno, siamo ancora indietro con il programma, ancora iniziamo quindi il programma del quinto, e automaticamente noi ragazzi alla fine ce la mettiamo tutta per recuperare quel pezzo, diciamo, di programma che è mancato. Damiano, da quando sei tornata a scuola, studi con più voglia, insomma, il fatto di non aver potuto studiare per tanto tempo ti ha fatto scoprire anche un po' di più la necessità e l'importanza dello studio? Beh sì, anche perché alla fine io, facendo anche l'istituto per geometri, alla fine noi facciamo anche materie tecniche che studiano quindi anche come si costruiscono case, scuole, e quindi è la cosa fondamentale di questa scuola, e quindi riusciamo anche a capire perché determinate case, determinati quindi edifici sono crollati con il terremoto del 6 aprile, e quindi studiamo anche con più piacere, ecco. Un giorno costruirete case un po' più solide e sicure. Speriamo. Grazie Damiano. Stefano, anche tu, insomma, un anno cominciato bene, intanto perché vi siete ritrovati, insomma, no? Fra amici, e questo deve essere stato bello, come mi hanno raccontato anche i tuoi compagni. Ma avete paura quando siete a scuola? Beh, io sinceramente no, però ci sta ancora gente che c'ha paura, cioè quando sente una minima botta, sente un movimento strano, comunque c'ha paura. Tu invece sei coraggioso e non hai paura? No, non è coraggio, è incoscienza questa. Senti Stefano, tu invece ti senti pronto per la maturità o effettivamente senti di dover studiare più degli altri, insomma, per recuperare il tempo perduto? Io purtroppo sono uno di quelli che devo studiare più degli altri, perché... Ah, sei un somaro, sto parlando con un somaro. Allora non approfittare di questa situazione per arrivare alla maturità senza studiare, tanto mi fanno uno sconticino, eh? No, ma sto cercando di mettermi sotto. Però attenzione, perché quest'anno mi sa che non ci saranno più sconti. Se bisogna bocciare, si boccia. Sì, sì, lo sappiamo, purtroppo. Va bene, dai. Ragazzi, in bocca al lupo e buon inizio d'anno. Ok, grazie mille. Buona giornata. Buona giornata a voi, ciao. Auguri anche a tutti voi che ci ascoltate. Ci ritroviamo sabato prossimo, anno nuovo, e speriamo anche scuola nuova.